there's a room somewhere. Martedì, femminista autogestito. Far away from the cold night air. Ora noi da Ritevo a 87.9 per Sarnato gli Eresneu per quello di Radio Onda Rossa. My goodness, are there still feminists in Italy? Mezzatette la ciprede, e quante volte ha detto rade frate. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Er bene che te voglio, nullo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa portata. Severina, lo sapete, non serve bello mio che cerugate, non serve bello mio che cerugate, sopportellate quante ne volete. La ra la la ra la la ra la la la la ra la la ra la la ra la la. E questo è il martedì autogestito da femministe lesbiche. Buon pomeriggio. Si avvicina il giorno di San Valentino, giorno della strage delle donne, e quindi, come nelle migliori tradizioni del martedì autogestito da femministe e lesbiche, un po' decortellate con Gabriella Ferri. Me sa mill'anni che se facci notte, pannata solo via da questa parte, pannata solo via da questa parte, mi è venuta la smania della morte. Me sa mill'anni che se facci notte, pannata solo via da questa parte, pannata solo via da questa parte. Allora sì, benvenute e benvenuti all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Questa te possino da tante cortellate, anzi forse te pozzino da tante cortellate di Gabriella Ferri, introduce un breve spazio prima della lettura del palinsesto, perché appunto fra due giorni è San Valentino. San Valentino, conosciuto anche come la famosa strage del 1929, noi quest'oggi invece vogliamo parlare di un'altra strage quotidiana, una guerra permanente, una guerra a bassa intensità che però appunto uccide e colpisce tantissime donne. San Valentino è nemico delle donne, l'amore romantico. L'amore romantico non è sempre esistito, ma è un prodotto culturale e sociale, oltre ovviamente che economico. Fa la sua comparsa nell'Ottocento, è il secolo del romanticismo, ricordiamo il romanticismo in letteratura. Prima ci si sposava, quando ci si sposava per scelte dettate principalmente, anzi esclusivamente dalle famiglie, secondo interessi economici, erano le famiglie a scegliere il, fra virgolette, miglior partito. in ogni classe sociale, nelle differenze classi sociali ci si guardava differenti cose per scegliere appunto chi, con chi sposare il proprio figlio o la propria figlia. La robustezza fisica poteva essere la disponibilità a lavorare, per alcune classi i possedimenti e le terre per appunto le classi nobili e la borghesia. Prima dell'Ottocento, quindi, anche l'omosessualità e il lesbismo non erano condannati, non erano un problema, erano semplicemente una forma della sessualità. Con l'avvento del romanticismo in letteratura, diciamo che viene permeata tutta la società. Il romanticismo è l'espressione della borghesia che oramai è affermata, si sta affermando, diciamo, appunto, comunque è passata già la rivoluzione francese, la rivoluzione della borghesia, e quindi la borghesia ha bisogno di piccoli ideali sdolcinati e anche di una doppia morale, ha bisogno che il matrimonio quindi sia ammantato di sentimentalismo, che il contratto sociale non sia più così evidente, grezzamente evidente, ma sia ricoperto di veli e merletti, di belle parole, insomma di tutta una simbologia, e che quindi di conseguenza l'amore sia quello eterosessuale, e l'omosessualità e il lesbismo siano condannate e stigmatizzate. È possibile, ci chiederemo, mettere in discussione i sentimenti? È possibile mettere in discussione l'amore, l'amore romantico? Sì, perché dobbiamo essere consapevoli che anche questi sentimenti sono il risultato di una costruzione che è sociale, culturale, ovviamente economica, e che oggi è diventata naturale, è stata naturalizzata, è normale innamorarsi. Allora ci si innamora non da tantissimo tempo, da circa 200 anni. Prima si scopava, ci si incontrava, ci si accoppiava, si passava la vita insieme, si passavano parti della vita insieme, poi ci si lasciava, poi ci si rimetteva insieme con qualcun altro, con qualcun'altra. E quindi l'amore romantico è una costruzione sociale, abbiamo detto, culturale ed economica, ed è un dispositivo ideologico di controllo delle donne. Le donne vengono controllate in vari modi, attraverso l'eterosessualità obbligatoria. Il rosa va ovviamente accoppiato al celeste. Le donne vengono controllate attraverso la dipendenza dagli uomini. L'ideale, il falso ideale della completezza solo insieme all'altra metà, la desolidarizzazione e la divisione delle donne. Le donne vengono controllate attraverso l'addomesticamento sessuale, per esempio attraverso la monogamia, la fedeltà a tutti i costi, la passività femminile e l'attività, invece l'essere attivo dell'uomo. Appunto. Questi sono tutti dispositivi ideologici che hanno una precisa matrice storica e sono stati creati in un preciso momento storico per asservire le donne. Un anno fa le femministe indignate hanno scritto un bel testo di cui vi andiamo a proporre qualche stralcio, L'amore romantico uccide. Hanno fatto una iniziativa... Non saprei se a Madrid o a Barcellona, scusatemi. Nella cultura occidentale moderna e contemporanea, l'amore romantico e la sua classica espressione, cioè la coppia eterosessuale finalizzata a costruire e preservare la famiglia mononucleare, pone le basi non solo sociali ed economiche, ma anche psicologiche della subordinazione della donna. L'amore romantico rafforza la divisione fra la sfera pubblica e quella privata, relegando le nostre aspirazioni, i nostri sentimenti, la nostra esistenza in quest'ultima, appunto, nella sfera privata. L'amore romantico si edifica sopra l'idealizzazione della felicità, felicità che è dipendente da qualcun altro. Si presuppone che non possiamo prendere in carico da sole la nostra vita affettiva, ma che questa sia dipendente dall'esistenza di un'altra persona. Da qui la classica frase, classica e famosa: sono felice perché tu sei con me. Ecco, questa è la classica frase che produce dipendenza. Quello che vogliamo mettere in discussione è ciò che sottende alla cosiddetta teoria dell'altra metà, e cioè che per ciascuna di noi esiste una metà che ci completa. Ciascuna di noi è già una persona intera e di per sé non esiste una metà che ci completa per destino. Ma soprattutto non dimentichiamo che l'amore romantico uccide. Nel solo primo mese di questo 2012, in Spagna era l'altro anno, in Italia appunto avevamo superato i 20 casi, solo nel primo mese del 2012 in Spagna erano già 8 le donne uccise da uomini che avevano, con cui avevano una relazione, mariti, fidanzati, ex fidanzati e così via. L'amore romantico è uno dei fattori più insidiosi a sostegno della violenza contro le donne. Questo modello di amore basato su appunto un tipo di amore romantico è percepito come una passione sofferente, e altri miti della nostra cultura occidentale, appunto la monogamia, la fedeltà, l'altra metà, l'eterosessualità come qualcosa di naturale. Questo tipo di amore emerge in special modo nell'educazione sentimentale delle ragazze e poi quindi delle donne. Molte assumono questo modello strutturando la propria vita intorno alla conquista dell'amore, convertendolo in obiettivo fondamentale della vita. La ricerca del principe azzurro, per esempio. La possibilità di tollerare la violenza aumenta nelle donne che perseguono l'ideale dell'amore romantico, credendo che nel bene o nel male sia questa forma a dare senso alla loro vita, appunto nel bene o nel male. E continuano le femministe indignate che hanno scritto questo testo per il 14 febbraio dell'anno scorso, ma che a noi piace, quindi abbiamo scelto di riprendere. La gravità delle conseguenze del modello dell'amore romantico ci spinge a farne un'analisi critica e a decostruirlo per dare impulso invece a relazioni affettive alternative che non generino sofferenza, sfruttamento e dipendenza e che rispettino la nostra individualità e completezza. Appunto, relazioni quindi improntate sull'autonomia. E prima di concludere questo breve spazio e di sentire un altro brano classico del martedì autogestito da femministe e lesbiche per le giornate intorno al San Valentino, noi vogliamo ricordarvi che con un titolo simile, appunto, e immaginiamo dei concetti simili, la Coordinamenta Femminista e Lesbica invita tutte il 14 febbraio nello spazio separato del 22 di Via dei Volsci a Roma dalle 17:30 per discutere e decostruire, decodificare, destrutturare appunto il paradigma dell'amore romantico. Valentine's Day, you would want me to say, babe, I love you, yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick, even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. You don't come home to me. Oh, no. Well, you don't come home to me. Man. Can't deal, can't bear. Telling me lies, but to your surprise, look, I found her red coat and your bitch caught out there. Truck to flames and watch it blow up on me. How you gonna see it now? so far from sincere. I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this I see? I don't believe you this. Don't come home to me. Well, you don't come home to me. I can't deal, can't bear. I won't. You keep telling me lies, but to your surprise, look, I hope you're happy since you're out there. Yeah, you've been caught. Why the hell her? Look, she dresses. Look at her. A mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Uh-uh. Well, you don't come home to me. Can't deal, can't bear. Told you I you won't. You keep telling me lies. But to your surprise, God.